Così la donna, così la donna a cannone, quell'enorme mistero volò tutta sola verso un cielo nero nero, si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano stati lì. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. Si calmi. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, senza ali e senza rete, torneremo via.